Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata, cari miei radioascoltatori. Voi pensate che le mafie esistono soltanto in Calabria, in Sicilia, in Campania e nel nord? No, nulla di più sbagliato, esistono anche in Puglia, anzi, per chi avesse passione e amore per questi argomenti in terra di Puglia, recentemente ho dedicato sul mio blog Guardie o Ladri alcuni articoli alla presenza radicata, anzi, alla rinnovata furia delle mafie pugliesi, non soltanto in provincia di Bari, ma anche in provincia di Foggia. Recentemente ricorderete che sono stati uccisi due imprenditori a Vieste. Chiudiamo la parentesi e quindi parliamo di una bellissima storia di antimafia, vale a dire di coloro i quali resistono, anzi, lavorando le terre che sono state confiscate alle mafie, producono lavoro, producono ricchezza e danno un segno del cambiamento. Ci troviamo a Mesagne, in provincia di Brindisi, dove opera una coop, una cooperativa sociale che si chiama Terre di Puglia. E noi oggi parliamo con il responsabile Alessandro Leo. Buongiorno Leo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, chi sono stati sottratti questi beni immobili? Le confische hanno riguardato sia uno dei capi mafia locali a Mesagne, il braccio destro del fondatore dell'organizzazione criminale, forse la più conosciuta in Puglia, la Sacra Corona Unita, Carlo Cantanna, che attualmente è detenuto nel carcere di Lecce, e poi un'altra confisca in particolare è stata operata ai danni di del cassiere della Sacra Corona Unita, colui il quale insomma prendeva tutti i proventi illeciti. Ecco, di chi aveva il bilancio, insomma il ministro, esatto, delle finanze della Sacra Corona Unita. Pensate, sì, quindi che godimento che ci deve essere a lavorare in queste vigne splendide. Tra l'altro io sto guardando su Libera Informazione .it una bella immagine proprio di questi grappoli che scendono e qualcuno che li raccoglie, una cosa fantastica. Allora, mi racconta la sua giornata, Leo? La nostra giornata lavorativa è chiaramente, come dire, ognuno con le proprie responsabilità, ma ci teniamo a dire che è la giornata di persone normali, di lavoratori normali che quotidianamente si impegnano a far funzionare le cose anche sulle terre confiscate, e quindi c'è chi al mattino si alza presto, come uso qui, per i contadini, gli agricoltori, per andare a fare i lavori nelle vigne. Ah, quindi non siete sfaticati al sud, anche lì vi alzate presto, bravi, bravissimi. Pare, quindi lei non è un terrone, è un polentone lei? No, decisamente terrone. Decisamente terrone salentino in questo caso. Terrone salentino. Bene, bene, bene. Io mi permetto di scherzare, ovviamente. Prego. No, ma, e quindi lei si alza la mattina e comincia a curare che cosa? Le sue vigne? O c'è chi cura queste vigne? Noi siamo in tanti soci, c'è chi si occupa chiaramente della parte amministrativa, c'è chi si occupa della logistica, degli ordini, e ancora chi si occupa concretamente della cura dei vigneti e della cura poi di tutte le nostre coltivazioni. Ecco, ma c'è chi vi rompe le scatole? C'è qualche mattina in cui vi svegliate e trovate, come purtroppo accade alle cooperative in altre parti d'Italia, trovate la testa di capretto, il lucchetto con la colla dentro, oppure messaggi intimidatori, oppure lì da quelle parti invece, come dire, la rete di protezione sociale è ancora più forte che altrove? Ma nonostante questi progetti nati poi dal percorso di Libera, e quindi progetti Libera Terra in tutto il Mezzogiorno, siano stati comunque affiancati e siano affiancati da una rete di protezione sociale, come dice lei, e quindi anche da un'attenzione particolare delle forze dell'ordine, delle prefetture, tuttavia ecco, questa azione sicuramente non fa piacere a qualcuno, per cui è naturale, non c'è cooperativa Libera Terra che non sia stata in qualche maniera oggetto di certo. E noi siamo qui per questo, guardi un po'. Vorrei sottolineare il fatto che lo diciamo anche, come dire, non ci piace sottolinearlo, a noi piace invece comunicare le cose positive, ma se proprio lo dobbiamo dire, ecco, senza piangerci addosso, vediamo il lato positivo, cioè che questi segni di intimidazione, gesti sicuramente codardi ci dicono che probabilmente che siete sulla strada giusta, che si sta colpendo assolutamente. Che strano che un meridionale non si piange addosso, ma guarda un po' tu questi luoghi comuni come vengono sfatati, che roba strana. Io ovviamente continuo per paradossi a sottolineare questo, perché dobbiamo smetterla nel credere che esistono due Italie. Andiamo avanti. Poi questo vino, questa vigna diventerà, voglio dire, un frutto della terra, e il vino, questo vino che strade prende? Dove lo dobbiamo acquistare? Come lo possiamo acquistare? A marchio Libera Terra produciamo Negro Amaro e Primitivo. Il Negro Amaro in particolare, rosso e rosato, è il vino, il nostro vino che è più presente in Italia attraverso gli scaffali della grande distribuzione. Certo, ecco, ma ce l'avete un enologo? Ce l'avete qualcuno? Certo. Voi in Puglia avete degli enologi? Noi abbiamo la collaborazione di una cantina locale in particolare, e per questi vini, tra cui anche il nostro Isotella Rai, che è poi il vino che abbiamo dedicato ad un giovane ragazzo albanese ucciso dai caporali. Bravi, che è venuto a lavorare in Puglia. Bravi. Isotella Rai racconta molto della nostra Puglia. Che roba strana, che roba strana, hanno persino gli enologi in Puglia, ragazzi, i terrori sono forti. Ma è una bella storia anche il fatto che ci dà grande sostegno un enologo nato in Val d'Aosta. No, residente. Non lo dica, non lo dica, no, addirittura. La cosa bella è che si è messo a disposizione, è venuto ad insegnarci, perché qui purtroppo non è molto diffuso il metodo di coltivazione biologico, le nostre coltivazioni, anche il vino è biologico, è tutto in biologico. E con lui abbiamo, insomma, fantastico questo percorso di vinificazione. Benissimo, io la ringrazio per questa meravigliosa testimonianza. Quindi ne racconteremo ovviamente altre di queste storie. Mi fa piacere, e ogni volta che so che le terre sottratte alle mafie diventano occasione di lavoro, di rinascita sociale, sono felicissimo. Quindi grazie veramente per il suo intervento ad Alessandro Leo, grazie in regia Roberto Scaltritti, e in studio a Laura Fagin e Roberto Galullo. Vi auguro una buona giornata.